Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Le 10 e 7 minuti, buona domenica da Stefano Gallarini, comincia il riposo del guerriero, rotocalco domenicale di Radio 24. E prima di introdurvi subito nell'argomento della puntata di oggi, che comunque già sapete se avete visitato radio24.it, e vi ricordo alle 11.40 circa Modigliani in 24 minuti. Per voi la possibilità di riuscire a portarvi a casa il catalogo della mostra Modigliani e gli artisti di Montparnasse, mostra a Milano, a Palazzo Reale, due biglietti d'ingresso, ammesso che riusciate ad associare a la canzone che sto per farvi ascoltare uno dei quadri di Modigliani. Donne candide, donne che si arrendono, donne in amore, l'amore le perdonerà. Donne magiche, donne che sorridono, dolce mistero, il tempo non le cambierà. Questa è La Grazia di Michele di Le Ragazze di Gauguin, canzone che si associa a uno dei dipinti di Modigliani. Dovete dire a quale, poi ve li aiuterò, come al solito, per portarvi a casa catalogo e biglietti d'ingresso. Il numero per prenotarvi, come sempre, 800 24 00 24. Si gioca alle 11.40 circa. Ma veniamo invece all'argomento di oggi, che è nato da queste parole. È la crisi che non dà scampo. Quindi o diventiamo comunità o ci diamo una mano uno con l'altro. Allora le parole devono essere diverse, devono essere senso di comunità, solidarietà, onestà. Io ho scritto un pezzo così, sono queste parole guerriere. Le parole guerriere sono queste, che la politica si deve prendere, di stare insieme, sentirsi parte di un progetto. Questo movimento ha riaperto gli occhi. Onestà, solidarietà e altre. Insomma, mi piaceva il concetto di parole guerriere. Cosa sono per voi le parole guerriere? Quali sono per voi le parole guerriere? Cercheremo di capire alcune di queste parole, raccontarvele con gli ospiti che ci sono in studio e non soltanto quelli al telefono, che comunque sono presenti durante la puntata, e poi ci siete voi, ovviamente, perché sono anche curioso di conoscere quali per voi siano le parole guerriere, quelle che in qualche modo appartengono alla vostra vita o che volete appartenessero per qualche ragione, insomma, che volete che entrino proprio a far parte della vostra quotidianità, o vostra oppure della comunità, visto che comunità è una, fra l'altro, una delle parole guerriere. Il numero per i vostri messaggi 349-238-6666. E per sorridere un po' di parole, mi è venuta in mente questa canzone. Dammi tre parole, sole, cuore, amore, dammi un bacio che Lea Rossi poi è sparita dopo tre parole, però insomma questa canzone mi mette allegria, e visto che parliamo di parole guerriere, non so quanto sole, cuore e amore siano parole guerriere. Michele Tosi, ciao, benvenuto. Buongiorno, ciao. Visto che le parole riguardano. Per la pubblicità va bene, però cuore, sole, amore. Ma in pubblicità vanno bene tutte le parole, perché usiamo la comunicazione, quindi facciamo diventare guerriere le parole che vogliamo, secondo il contesto, anzi le affiliamo ogni tanto. Anzi, possiamo dire che in pubblicità ogni parola è guerriera, intesa sì, come infatti, testa guerrieri, da rete, sì, in qualche esatto, modo. Perché sì, le facciamo diventare guerriere secondo il contesto in cui le mettiamo, magari con evidenza, all'inizio, alla fine, evidenziandole, le facciamo diventare armi. Quando parliamo di parole, sì, scusate il bisticcio, immancabilmente abbiamo Michele Tosi, copywriter di grande fama, sì, ecco, diciamo così, faccio l'elenco di tutte le cose, no, che hai scritto, tanto le vediamo quotidianamente, e Francesca Dragotto, glottologa di grande fama. Ciao Francesca. Come no, buongiorno. Buongiorno, buongiorno anche a Michele. Buongiorno Francesca. Allora Francesca, siccome c'è la viabilità, e io lancerei la viabilità perché così poi tu introdurrai l'argomento parole guerriere, perché so che tu già dalla parola guerriero partirai. Io già, sì? già ti conosco. Quindi partiamo da quella. Intanto è invito. Vero, non ho più segreti. Ormai basta. Intanto invito gli ascoltatori a scrivere quelle che secondo voi sono per voi le parole guerriere. 349-238-6666. Aggiornamenti sul traffico. Il riposo del guerriero. E già arrivano le vostre parole guerriere, poi appunto le citeremo, chiederemo anche a Francesca e a Michele l'inserimento di queste parole in pubblicità, nella nostra quotidianità, nel nostro pensiero o immaginario. Francesca Dragotto, a te la parola. Oh, allora, guerriero ovviamente è un derivato da guerra, parola di origine germanica che si è imposta e ha fagocitato il significato che in latino era proprio invece di bellum. Bellum che però l'italiano ha mantenuto in duello, quindi nella guerra a due. Nell'antico alto tedesco, che è invece la varietà linguistica da cui la parola per guerra è stata ripresa, significava discordia, contesa, e da lì c'è stata l'infiltrazione per il mondo romanzo. Prima di passare a guerriero vorrei far vedere quanto è ampia la famiglia della guerra nella nostra lingua, perché si va da guerrafondaio a guerraiolo, guerreggevole, guerreggevolmente, guerreggiamento, guerreggiare, guerreggiato, guerreggiatore, una serie di parole che ovviamente in parte sono disusate, ma che la lista potrebbe continuare e a lungo, testimoniano la vitalità di questa radice, di questa base. Per quanto riguarda guerriero, nella nostra lingua è attestato sia come sostantivo sia come aggettivo. Le prime attestazioni risalgono grosso modo agli anni intorno al 1000. Il sostantivo sta per uomo di guerra, e chi combatte in difesa di una persona, di una causa, ma anche per nemico, per avversario. Ora, per quanto riguarda le parole guerriere, io ho iniziato leggermente prima di voi la raccolta attraverso la mia pagina Facebook, e l'elemento interessante su una delle cose che sto per dire, passerò la palla a Michele. L'elemento interessante è che dalla raccolta che finora ho fatto emergono sostanzialmente tre interpretazioni di parole guerriere. Sì. Una connessa con l'etimologia, quindi nella prima, che è poi la stessa che ritroviamo anche nel noto discorso di Grillo in chiusura di campagna elettorale, abbiamo un'interpretazione che va verso lo scudo, la pressione, l'eroe, la carica, il fuoco, la baionetta, l'audacia, il rischio, l'arrendersi, il non arrendersi, l'essere circondati, la distruzione. Sono tutte parole che ho raccolto tra utenti Facebook. La seconda è, quindi lì abbiamo parole guerriere intese come azione, prevale la, per così dire, la semantica dell'eroe, quindi ci attendiamo delle narrazioni che sono delle epopee, che ricordano le trame dei racconti epici, e non a caso, se poi ci sarà modo ne parleremo, quel discorso ricorda da vicino appunto un'epopea. Nel secondo filone troviamo parole guerriere intese come slogan di carattere etico-ideologico: democrazia, responsabilità, credere, diritti, umanità, partecipazione, rispetto, opportunità, condivisione, libertà, disciplina, ascolto e così via. Non a caso ho usato slogan, che è una parola della guerra, parola che l'inglese ha ripreso dallo scozzese e che aveva in questa lingua significato di grido di guerra. E poi un terzo filone in cui sono state segnalate parole come blog, rete sociale, internet, a riprova del fatto che il mezzo è diventato un modo per fare breccia, un modo per fare la guerra, per portare avanti le proprie idee. Ecco, fra l'altro sono tutti argomenti che oggi poi discuteremo anche con gli ospiti, perché tutti li toccheremo. Allora, Michele Tosi, abbiamo detto che le parole in pubblicità sono tutte guerriere, fondamentalmente. Ma sì, è così. Infatti la distinzione potrebbe ampliarsi ancora di più, perché in effetti quella citata da Grillo potrebbe essere delle parole su cui vale la pena combattere. Sì. Quindi diventano guerriere perché vanno difese, protette, vanno spezzate delle lance a favore, piuttosto che quelle che usiamo noi in pubblicità, dove vengono armate alcune parole per farle diventare guerriere, farle diventare offensive. Faccio un esempio. L'esempio che non ne ho, no, nel senso, non ne ho, perché praticamente ogni spot pubblicitario, sì, ogni pagina ha l'incarico nelle sue parti di testo di far diventare ogni parola guerriera. Quindi saper dare importanza, esatto, a ogni parola scritta. Esatto. Io ho fatto un breve elenco, sì, di parole che ormai sono spuntate, sì. Nel senso che invece essere guerriere sono ormai molle. Ecco, spuntate riesco... nel senso di senza punta, sì. Non che sono nate come spuntate, no, dal esatto, nulla. Okay, no, perché devo stare attento a Francesca che adesso ci dirà perché uno è spuntato e l'altro esatto. È punta senza la senza E con la S, esatto, la S privativa. È vero, certo. No, nel senso che noi abbiamo in pubblicità tantissimi suffissi tipo iper, ultra, super, ah, sì, mega, non se ne può più. Non se ne può più. Certo. Quando uno ha veramente delle cose del genere da raccontare, non può più usarle perché sono talmente diffuse, addirittura iper, sono entrati dei nomi. Sì, ormai anche il mercatino sotto casa è entrato un ipermercato perché ormai esattamente, certo, esattamente. Non c'è più un limite. Ho solo un esempio che mi fa sorridere perché uno di questi, anzi una serie di questi aggettivi strausati in pubblicità al punto che non sono più guerriere ma sono veramente nelle retrovie queste, sì. Queste parole che sono gli accrescitivi, cioè il buonissimo, l'altissimo, il fantastico, tutti questi issimi vi è già venuto in mente, come invece con una costruzione adeguata tre parole possono diventare... Eh beh, perché poi tre è il numero magico, non sì, c'è niente. Esatto. Dante già lo insegnava, quindi c'è qualcuno che è arrivato prima di noi. Quindi mettere la conseguenza di tre parole, non sì. Come quella della canzone di prima, diventano... Issima, una... purissima, purissima, cioè certo, esatto, quindi purissimo funziona in questo caso. Una parola di per sé non guerriera, sì. Anzi un aggettivo accrescitivo di quelli proprio banalissimi, ancora una volta, diventa invece particolarmente appuntito. Allora, visto che hai una certa età, sì, però non abbastanza, Michele, devo dirti non abbastanza, e... Questa situazione un po' di crisi, no? Dove alla fine bisogna fare in modo che alcune di queste parole guerriere siano appunto unità, solidarietà, no? Ti ricordano un po' gli anni 70, il post 68, che tu non eri troppo piccolo. Ma era l'elementare, però, non esatto, è vero. Però come non ricorda un po' forse quel periodo, beh, no? Io credo che ci sia un ritorno a volte di quelli che noi consideriamo i valori, la socialità, inevitabilmente sono dei cicli storici che... Dobbiamo tenere conto, allora, sia a livello politico che pubblicitario. Mi dispiace dirlo, cioè, mi dispiace dirlo, so che stavo dicendo una frase banale, cioè sono tornati di moda, ma non mi piace neanche a me, e quindi non lo dico. L'ho pensato, ma non l'avrei dovuto dirlo, però ve l'ho svelato. Diciamo che sono di attualità, sono temi tornati di attualità, e ce ne parla di questo. Maria Elena Viola, che saluto, direttrice di Gioia, buona domenica, grazie. Buona domenica. Allora, sul numero di Gioia c'è un interessante articolo intitolato Downshifting, poi entreremo nel dettaglio di Downshifting con un altro ospite, ma in particolare partiamo proprio con te, Maria Elena. Sì. Meno hai, più hai, tutto parte da Dolly Freed. Ci racconti un po' la storia di questa ragazza? Siamo nel 1978, se non mi sbaglio. Esatto. Cioè questa ragazza americana che con la sua esperienza, che scrive praticamente un libro che si intitola La vita dell'opossum, vivere bene, senza lavoro e quasi senza denaro. Cioè lei racconta la sua esperienza di vita col papà in un ettaro e mezzo di terra a nord di Filadelfia, e ci racconta che è riuscita a vivere col padre con $700 all'anno, e questo semplicemente rinunciando al consumo. La sua massima è più facile fare meno delle cose che puoi comprare con il denaro che guadagnarli soldi per comprarle. Quindi praticamente abbattere i consumi privilegiando una vita nella natura, una vita che privilegia altri valori, la felicità, il tempo libero, il fare quel che ti pare, anche l'ozio. Lei è proprio una grande, diciamo, sentrice dell'ozio, e questo parte dal padre, il quale aveva dipinto un quadro di Diogene in casa, in quanto appunto modello di persona che aveva rinunciato a tutto, e la sua massima era: non sono le cose, non siamo noi a possedere le cose, non sono le cose che possiedono noi. E proprio sostanzialmente rinunciare a tutto, abbattere i consumi per poter vivere serenamente e liberi sostanzialmente. Ecco, questo libro, sì, che ebbe appunto molto successo in quegli anni, lei diventò da ragazza molto alternativa a, diciamo, una ragazza passeggiata dai media, perché tutti quanti poi la vogliono intervistare, poi scomparve perché appunto alla fine questa sua volontà di fare una vita semplice, ma non per ragioni ideologiche, perché allora a quei tempi, appunto negli anni 70, andava molto, no, la vita semplice, sì, certo, le comunità hippie. Lei proprio tende proprio a specificarlo: io non, per me non era una scelta economica, ideologica, era una scelta puramente di vivere bene, una scelta economica, per cui non voleva associarsi a nessun altro dottrinante, che poi scomparve e diventò ingegnere aerospaziale della NASA, figurarsi, e poi adesso quando si accorse che anche quella vita le stava stretta, da diversi anni vive in Texas e fa l'educatrice ambientale, quindi è tornata alle origini, diciamo. Ecco, tra l'altro il libro è stato ristampato con grande successo proprio in questi anni. Ecco, quindi diciamo che questa volontà, questa esigenza, anche un po' purtroppo è proprio un'esigenza, nel senso che il potere d'acquisto è molto diminuito e quindi comunque sia bisogna fare a meno delle cose. Però c'è anche un recupero, no? del tempo e anche della capacità di capire che cosa si sta facendo e quindi anche cosa è giusto fare e cosa invece si può chiaramente tralasciare. Ma infatti diciamo che questa è una tendenza che sta veramente prendendo piede, di necessità virtù si dice, no? Momento di grande crisi. Sì. Per voler vedere il buono della crisi, perché da una parte c'è, e questo è il ritorno alle cose semplici. Esiste in Italia un movimento per la decrescita già dal 2007, esistono anche tantissimi blog di persone che raccontano come è possibile abbattere le spese e rinunciare al consumismo sfrenato per vivere in maniera serena. Sono spesso poi le persone che hanno avuto carriere lanciatissime, cioè chi decide a un certo punto di mollare è proprio chi è stato, come dire, un po' fagocitato dal sistema, chi ha delle leggi economiche di mercato è stato una delle persone più di successo, donne in carriera, uomini in carriera, anche devo dire che sono più le donne che stanno, ecco, cavalcando. Infatti su questo stavo per farti proprio una domanda, su questo ci avviciniamo fra l'altro anche all'8 marzo volevo proprio capire, anche io ho questa impressione che in generale le donne sono più portate alla rinuncia in questo senso e alla costruzione da quello rispetto agli uomini, ma non so se è un fatto educativo, cioè come siamo educati noi, l'economia uomini, non lo so, esatto, non so da dove derivi, oppure proprio da una, non lo so, proprio da un... Io credo che più che l'abituata alla rinuncia, sicuramente c'è anche quel fattore lì, anche se poi le donne sono quelle che fanno più shopping, sì, però ecco, è diverso, di consumismo. Ecco, sì. Però devo dire, più che altro le donne sono molto più brave ad adattarsi alle situazioni che cambiano, e mentre anche vedendo la propria realtà, circostanze delle persone che conosco, gli uomini patiscono molto la perdita del lavoro, questa realtà appunto che ci sta togliendo, le donne imparano a cogliere il buono e il positivo. Io ho tantissime amiche che sono super laureate con super professioni, che magari perdendo il posto di lavoro si reinventano recuperando, diciamo, vecchie lavori femminili, no? Il fare le torte, il creare gioielli, cioè veramente reinventarsi in questo senso. Un modello che noi dobbiamo avere bene a mente è quello delle donne orientali. Le donne orientali, diceva anche Rampini nel suo Slow Economy, no? Sono abituate per esempio al riciclo, non so, leggevo che per esempio non buttano l'acqua del riso del riso bollito, ma lo usano per innaffiare le piante, i pezzi di sapone usati per il bagno li riutilizzano per fare detersivi per la casa. E credo che anche da noi nella cultura occidentale, che è la cultura un po' dello spreco, sia tornata questa esigenza, anche questa bellezza di recuperare cose che facevano anche le nostre nonne, no? Imparare a sperperare meno, a usare meglio, con più intelligenza. Non a caso appunto molti blog che stanno nascendo sono blog di donne naturalmente felice. Io ho dato uno sguardo per esempio a questo blog naturalmente felice. Ne parleremo dopo con Maria Elena Labanca, che è proprio una delle autrici del blog. Perfetto. Ci racconterà esattamente. Grazie Maria Elena Viola, direttrice di Gioia. E insomma, rendiamo preziose le parole di Dolly Fried. Buona domenica a tutti, arrivederci. Il riposo del guerriero. Partiamo dai vostri messaggi e leggo subito uno degli ultimi che sono arrivati. Questa situazione è definita come una sorta di rivoluzione, forse un nuovo rinascimento. Qualcuno dice una nuova primavera. Francesca, primavera, rinascimento, tutte parole che portano alla costruzione del nuovo. Siamo appunto legati a quel primo filone di interpretazione che in sé contiene un riferimento a valori positivi, quindi si fa la guerra, si incarna lo spirito del guerriero per poter sovvertire la situazione attuale, che per tante ragioni può non essere più funzionante, ma lo si fa in vista di un miglioramento. È difficile trovare una semantica peggiorativa legata a questo filone di interpretazione. Non a caso appunto parlavo dell'epopea, dell'eroe, perché quasi sempre abbiamo qualcuno che si fa portavoce di questa istanza, di questa esigenza di rinnovamento e che attraverso le parole riesce a penetrare nelle mura alla stregua di un cavallo di Troia. Quindi nel caso del poema omerico era un cavallo di legno, in questo caso cavalchiamo parole, ma l'atteggiamento è lo stesso. Ecco, io tra l'altro dopo avremo anche un ospite che ci parlerà della rete, che è stata citata fra l'altro nelle parole guerriere, no? Perché sì, ragionavo su questo fatto e pensavo a questo, che le parole oggi, le parole scritte, hanno molta più forza di quelle ascoltate e in questo momento, e spiego perché lo dico. Allora, arriviamo da un momento in cui la televisione era un tutto, nel senso che ascoltavamo, la radio è sempre rimasta, vabbè, poi per me, ma in generale, che ho fatto entrambe le cose, però comunque la radio è lì, grazie al cielo, con la sua forza. La televisione ci ha raccontato tante cose e quindi le parole dette sono arrivate nelle nostre orecchie, nei nostri pensieri. Oggi però la parola scritta ha più valore, perché con la rete, con internet, siccome si scrivono le parole in rete, e le parole scritte in rete sono indelebili, perché io posso scrivere una cretinata in questo momento su un mio blog o su una mia pagina di Facebook, e per quanto io tra un minuto possa rendermene conto e cancellarla o modificarla, quella cretinata ha già fatto il giro del mondo e quindi diventa indelebile tutto quello che viene scritto. Sì. Quindi credo che la parola sia più forte oggi che nel passato. La televisione era semplicemente un sottofondo delle immagini. Esatto, e basta, tutto la dimenticavi. Ha una rilevanza diversa. Molto diversa. È uguale invece nello scritto, perché rimane. Rimane perché con rimane. La rete poi non, con la rete sì, tutto diventa indelebile, mi rendo conto di questo. La riproposizione di quello che è accaduto con l'introduzione della stampa, con l'epoca gutenbergiana, perché si è passati da un'epoca in cui la scrittura era ancora decisamente limitata e quindi costando anche moltissimo prima di Gutenberg il supporto per sì, la registrazione della scrittura, era chiaro che se ne facesse un uso quanto più possibile parsimonioso. Con l'introduzione invece della stampa a caratteri mobili si passa alla possibilità di stampare con facilità o comunque dando accesso alla stampa a un numero sempre più ampio di persone. Con i nuovi mezzi di comunicazione sta accadendo la stessa cosa, ma naturalmente su scala maggiore. Anche perché appunto, ripeto, un errore o comunque una frase detta, scritta in questo caso, rimane poi davvero per sempre. Bisogna anche stare attenti a quello che si scrive in rete. Anche perché ormai tutti possono scrivere tra sì, i Twitter, cose. E infatti ne parleremo. Rischio è il mare magnum, in cui poi non si riesce più a distinguere la validità dell'informazione, per questo bisogna esercitare la propria e affinare la propria capacità critica. Ecco, no? è una delle parole guerriere che hanno scritto in un messaggio, la capacità bene, critica. Ecco. Sì, mi sento di condividerla completamente. Allora, torno alla pubblicità un attimo, scusate se salto di qua di là, ma i messaggi sono tanti e volevo poi coinvolgere tutti. Qualcuno dice un pensiero da Michele Tosi sulla morbistenza. È l'argomento che ho introdotto all'inizio, cioè la pubblicità non ha tanto le parole guerriere nel senso profondo, bello, parole da difendere, concetti, se non quello di vendere. Per cui che è esattamente il contrario di tutto quello che stiamo dicendo. Poi, no? Purtroppo sì, siamo in un ambito molto commerciale la pubblicità. Però ha un utilizzo delle parole, come ho detto prima, essendo tanta la quantità di pubblicità emessa da tutti i mezzi di comunicazione, ce n'è tanta di comunicazione, tante parole che ci arrivano alle orecchie, agli occhi, al punto che alcune frasi, alcune parole sono ormai spuntate, nel senso di senza punte, e i pubblicitari si inventano dei termini. Si inventano come la morbistenza, piuttosto che c'era quella di insomma, ricordo più della tutta la pubblicità della Fiat, di una ventina di anni esatto, fa, che sfrutta. Sì, sì, ce n'erano cercare di mettere insieme dei nuovi aggettivi per avere la paternità di una parola che nessun altro può usare se non poi portando acqua a quel molino. Beh, certo, perché poi pensi esatto, automaticamente a quello, è ovvio. Esatto. Maria Elena Labanca, buona domenica. Buona domenica a voi. Certo che il suo cognome con naturalmentefelice.com un po' stride, nel senso. Io non ci posso fare niente. Allora, Maddalena La Banca è una delle due autrici del blog naturalmentefelice.com. Torniamo a parlare di downshifting. Fra l'altro c'è un messaggio che adesso ho perduto perché sono veramente molti, scusate, continuo a scorrerli. Il concetto espresso nel libro citato, ed era il libro di Dolly Fried di cui si parlava prima, lo trovo saggio e brillante. D'altra parte la signora, appunto Dolly Fried, è stata anche ingegnere della NASA, anche se poi ha lasciato per tornare alla Terra. Allora, Maddalena La Banca, il downshifting, che appunto letteralmente possiamo tradurre come un passaggio verso il basso. Sì, calare la marcia. Una retromarcia, ecco. Scalare la marcia, sì. Esattamente. E è un movimento. Ma un pensiero, sì. Come lo possiamo definire? Pensiero. Se diciamo dobbiamo, uno stile di vita. Uno stile di vita. Mm-hmm. Uno stile di vita che parte dalla consapevolezza del fatto che questo modello economico non ci porta da nessuna parte. Noi ci sentiamo molto spesso, ma noi tutti, come se stessimo correndo nella ruota del criceto, senza arrivare da nessuna parte. Quindi corriamo, ma in realtà dove andiamo nessuno lo sa. E quindi da questa riflessione parte tutto quello che è il movimento della decrescita felice e appunto il downshifting. Ecco. In realtà c'è anche una teoria economica di supporto, ecco, a questo, esatto. Però noi magari di questo non ne parliamo, ma parliamo proprio di come una persona normale, tra virgolette, riesca nella vita di tutti i giorni a decrescere in maniera felice. Ecco, sull'approfondimento, no? Sulla teoria economica che esiste dietro il downshifting, che sarebbe interessante conoscere, capisco che non è la sede in questo momento, che non stiamo centrando tutto su questo, invito a visitare Naturalmente Felice, magari scrivere a Maria nella banca e farselo raccontare. Però ho una domanda di un ascoltatore, non so, che dice: ma chi la paga poi la sanità a questa gente e le pensioni? Cioè subito il pensiero arriva a lì, al meccanismo, hai capito? Che fa in modo di sostenere questa rinuncia a tutto e prodursi da soli, oziare, come diceva Dolly Fried prima, no? Ecco. Oddio, l'ozio sappiamo che appunto in questa teoria economica di riferimento è un ozio creativo, quindi non è un ozio come uno stare fermo, ma è un ozio come riflessione. Questa non è una mia riflessione personale, la potrei anche dire perché... volendo, lavorando a scuola, essendo pedagogista, per me appunto lo stare fermo non è mai uno stare fermo fine a se stesso, produttivo, ma è produttivo. Quindi se ci fosse un welfare di supporto che funzionasse veramente, questo andrebbe bene, ma in realtà una persona che decresce non fa più niente, decresce e comunque fa il bene della società, perché una madre che decide, ricordiamoci che il downshifting è una scelta, non è un'imposizione, di stare a casa con i propri figli, per esempio, fa un lavoro socialmente utile. Sì. Quindi non è che sta lì a non fare niente, segue i suoi figli, insegna ai suoi figli delle cose che solo lei può insegnare, quindi gli insegna la tradizione, gli insegna a fare delle cose, quindi gli insegna un sapere che altrove non si può imparare, perché a scuola non ti insegnano a coltivare un orto o a fare il detersivo da solo o tante altre cose che magari tu puoi insegnare così ai tuoi figli. Io e Emma lo facciamo entrambe. Per cui questa è la nostra esperienza. Ecco, poi chiaramente un sostegno economico bisogna averlo per forza, perché i figli mantenuti, la spesa bisogna farla, comunque ma a casa bisogna pagarla. Non è che noi siamo mantenuti, io non penso che noi siamo mantenuti. No, mantenuti nel senso che vanno cresciuti, per cui comunque non possono autoprodursi, no? Parliamo dei figli in questo senso, in questo caso. Una casa va pagata, quindi è vero che uno può avvicinarsi in un momento appunto di difficoltà o comunque di pensiero, ecco, perché come si diceva prima, la causa poi c'è, esiste, allora uno prende coscienza delle cose, bisogna imparare a non sprecare, riusare le cose, prodursi da soli. Sì. Ma l'autoproduzione è solo una degli aspetti, tante cose, certo, no? Che si fanno quando si fa downshifting, però riusare, riciclare e ridurre ti permette di non mandare i rifiuti in discarica, quindi anche quello ha un costo. Noi questo costo lo evitiamo. Il fatto di prendere la macchina, andare al supermercato e ad acquistare qualcosa, anche quello ha un costo per la società, un costo di mobilità. Cioè, noi non dobbiamo guardare solamente ai macro costi, ma noi dobbiamo anche guardare ai micro costi, che sono poi quelli che fanno i macro costi. Sì, oddio, non mi fate parlare però di economia, perché io potrei stare qui ore. Ma sai, ore, i nostri ascoltatori sono quello che chiedono, poi capisco come la sede, va bene, lo faremo, quando vi invito anzi a informarvi sul downshifting e chiacchierare e parlare, chissà che si possa fare una puntata invece tutta su questo, lo chiederò a Barisoni di parlare di questa cosa. E allora abbiamo proprio un pochissimo tempo, Maria Elena, sì, proprio due battute su due tuoi consigli, che cosa, da dove cominceresti? Tu avrai cominciato da qualcosa. Riducendo quello che era il costo della spesa mensile, che era quello che mi pesava tantissimo e che mi pesava di più, riducendo, evitando di acquistare prodotti surgelati preconfezionati e tutte le cose che in realtà io potevo fare in casa e che loro ti dicono che ti fanno risparmiare tempo con i loro slogan, no? Questa è colpa tua, Michele. Scusa. Per cui non dico la marca, però voglio dire, il pollo fatto nel forno c'ha sicuramente un sapore buonissimo anche senza l'utilizzo dell'aggeggio che tu ci fitti dentro, che poi è plastica e vabbè. E quindi ho notato che riducendo questi alimenti in teoria già pronti, il risparmio sulla spesa diventava già il 30%. Ecco, tu dici, cominciare da questo, perché bisogna anche capire che il tempo per fare le cose bisogna trovarlo, e si ha e lo si può trovare, e questo fa risparmiare, ed è sicuramente un buon inizio, indubbiamente. Io vi invito a pensare a quanto tempo ci mettete a prendere, a lavarvi, a vestirvi, a prendere la macchina. Sì, tu dici alla fine è lo stesso tempo. Senza litigare, sì, a fare la fila alla cassa, quindi io vi invito a pensare a questo tipo di tempo e poi al tempo, che ne so, per farci una pasta al sugo. Per lavarsi l'insalata, facciamo un esempio, ecco, no? Ecco, facciamo che anche. Io non credo che ci voglia di più. No, sei stata molto chiara, Marlena, è molto vero. Poi alla fine, poi sommando i tempi veramente con un cronometro, forse, senza forse, molto probabilmente hai ragione tu. E grazie per quello che fate, perché comunque ci fate, a me in particolare fate pensare, perché noi siamo un pochino più, corriamo un po' di più, però questa situazione ci fa pensare di più e questo fa bene. Grazie Maria Elena La Banca e complimenti. Grazie per il tuo blog con la tua collega, naturalmente felice.com, uno dei tanti siti e blog che si occupano di downshifting, e beh, non entro nel merito di quella cosa di cui pubblicitaria che ha detto, ma non era certo il mestiere è quello. E volevo leggere una Giulio di Treviso che scrive: la mia parola è libertà. Questa è la parola guerriera. Siamo schiavi del tempo, dei soldi, della vanità. Il riposo del guerriero. Comunque, applicando il saggio modo di vivere consigliato in quel libro, il fisco ti azzannerebbe, perché no, con il redditometro non saresti congruo. Esatto. Congruo è un'altra parola. È vero. Allora, partiamo da libertà, Francesca. Sì, però poi vorrei sottoporre due spunti alla riflessione di tutti. Allora, libertà è parola antichissima, la ritroviamo ovviamente già nel latino, da cui si è propagata per tutte le lingue romanze. Gli spunti, prima che me ne dimentichi, sono due. Uno per Michele, perché mettendo insieme l'intervento relativo alla decrescita con la necessità di promuovere la decrescita, è interessante porsi il problema di come pubblicizzare la decrescita, perché apparentemente si tratta di una contraddizione in termini, no? Perché quindi l'intervento di poco fa ha evidenziato questo nodo, però dal momento che il movimento stesso può avere delle chance di propagazione soltanto se viene comunicato, naturalmente ci si deve servire di forme di pubblicità, che siano propaganda perché è più ideologica, che siano pubblicità commerciale, però in ogni caso la conoscenza passa appunto per il publicus. E allora sarebbe interessante il parere di Tosi Writer, ho coniato anche una parola macedonia come la morbistenza di prima, che appunto è frutto della fusione di due parole, sarebbe interessante il suo parere per cercare di capire come il pubblicitario si orienta quando si trova di fronte a una potenziale contraddizione. La seconda, poi mi taccio, è sulla parola crescita, a cui noi siamo totalmente avvezzi, ma che in realtà l'italiano ha prodotto da pochissimo tempo, perché a differenza di quanto accade con i verbi crescere e decrescere, che sono già parte del latino, i due sostantivi crescita e decrescita arrivano centinaia di anni dopo, più esattamente circa 1700-1800 anni dopo crescita, sostantivo che si forma nell'ambito della biologia, e poi 50 o poco più anni fa decrescita come negazione di crescita, appunto. Il dato interessante è che oggi i dizionari registrano crescita ancora come parola ad alta disponibilità, quindi non come parola fondamentale. Quando mi sono imbattuta in questa cosa, poi veramente mi taccio, mi sono posta il problema. E prima di crescita, come si parlava della crescita? Perché l'idea di qualcosa che spunta, per riprendere la parola di prima, è chiaro che è connaturata alla nostra esperienza. Sì. Crescenza, crescimento. Quindi erano queste le forme della crescita prima che lentamente si imponesse la parola la crescenza, quindi, che oggi è un formaggio. Esatto. Cioè, sì. Sarà la, poi la lingua ricicla, non butta. Chiave questo. Ecco, vedi che cominciamolo dalla lingua, a riciclare, a non buttare, no? Sì. È già un buon modo per fare. E, tra l'altro c'è un messaggio, dice, ma ciao, anche con YouTube il parlato rimane sulla rete, secondo me non c'è molta differenza, è vero che rimangono anche i video, però rimane anche molta scrittura. Ecco, prima rimanevano soltanto i video, diciamo così, invece oggi la scrittura poi, diciamo che è ancora più veloce e facile scrivere qualcosa piuttosto che postare un video, francamente, no? È molto più immediato. Tu usi Facebook, Twitter e queste cose, Michele? Sì, no, Twitter non ho ancora capito, sinceramente. Però io l'ho usato in tempi non sospetti, allora. Poi nessuno lo usava in Italia e mi sono fermato, poi adesso invece è andato di moda e basta. No, Facebook sì, perché è nato proprio come la voglia di conoscere, sì. Mettersi un po' in mostra su alcune cose, certamente. Ma recuperare conoscenze, io l'ho usato soprattutto così, e poi mi sono reso conto che il cerchio di Facebook è abbastanza limitato, sì. Malgrado la dimensione gigantesca, la possibilità della rete, è enorme, certo. Poi alla fine il giro degli amici è sempre quello, per cui sì. Uno continua a vedere sempre le stesse persone, per cui alla fine c'è basta, basta. basta. No, tornando, se abbiamo un minuto, sì, come sulla abbiamo, riflessione, sì, assolutamente, sì. Che mi ha buttato sul tavolo, sì. Francesca, sicuramente la pubblicità, quindi la comunicazione, deve tener conto di tutti questi nuovi fenomeni, ma non se ne fa un problema, nel senso che la comunicazione, dove c'è qualcosa da comunicare, la pubblicità quindi comunica, dove soprattutto c'è un budget, perché questo io leggo sempre questa cosa molto commerciale, ma sicuramente che il prodotto barra concetto da rendere noto sia un concetto politico, un movimento, piuttosto che un atteggiamento, uno stato, un prodotto, la comunicazione, ovvero i pubblicitari, prendono il meglio, cioè cercano di fare un distillato di quello che deve essere la comunicazione e la mettono in pubblico. Quindi che ci siano i surgelati piuttosto che gli spinaci da lavare, se c'è un budget dietro, il pubblicitario si inventa il modo migliore per comunicare a quelli che odiano la pubblicità, sì. In modo che siano attratti da un certo tipo di discorso, utilizzando i certi mezzi per poter comunicare al meglio. Infatti io mi ero siete segnato... veramente dei persuasori occulti, sì, come si diceva. Infatti io mi sono segnato una cosa che secondo me è molto divertente, perché mi capita quotidianamente, sì. Di come alcune parole che determinano esattamente un concetto, per vendere quel concetto non vanno usate. Mi spiego, sì, meglio. Vai. Quando un prodotto è particolarmente elegante o chic, sì, non lo si deve dire. E no, certo, perché sennò già perde. Perché sì, non sta bene. È, non come, è come quando tu dici che una cosa è moderna, è già vecchia nel momento, esatto, in cui hai detto come, che è moderna. Come sei, guarda, giovanile. Ah, una cosa terribile. Poi mi dicono sei decrepito, è, esatto, più divertente. Infatti mi sono coniato questa frase e mi dice chi lo dice sa di non esserlo. Ecco, perché... esatto, è proprio così, è vero, hai ragione. Beh, lo slogan perfetto per vendere al contrario lo chic. Esatto, sì, non, certo, bisogna dirlo, mai, mai dirlo, mai dirlo. Quando... Alessandra Belardini, buona domenica. Buona domenica a voi. Seconda divisione del Servizio Centrale di Polizia Postale, perché abbiamo parlato di parole che su internet, sì, possono essere pericolose. Esattamente, Alessandra. Esattamente. Quindi allora cominciamo dal che cosa non fare quando scriviamo in rete. Allora, sicuramente innanzitutto la rete non va demonizzata, noi, no, della, no, Polizia, beh, Postale ci teniamo tantissimo a dire questo, quindi la rete è uno scambio culturale di informazione essenziale a tutti i livelli, a tutte le età, sia per i giovani che per gli adulti. Ovviamente diciamo, determinati tipi di forum possono ingenerare, diciamo, delle problematiche che oggi vengono definite come trolling. Diciamo che in Italia questo trolling non è molto diciamo, diffuso, perché diciamo, l'origine è, diciamo, un'origine anglosassone. In cosa consiste, Alessandra? Allora, il trolling consiste praticamente in un soggetto, il cosiddetto troll, che diciamo fomenta gli animi provocatoriamente, in cui diciamo questo troll interviene in modo apparentemente insensato o volutamente ingenuo all'interno di un social network o all'interno di chat, e suscita un disdegno nella comunità virtuale perché comincia a far litigare i componenti di un gruppo, quindi inserisce frasi diffamatorie, frasi ironiche, fino addirittura arrivare, e potrebbe ovviamente farlo, a diciamo interrompere o addirittura far cancellare una determinata comunità virtuale. Quindi qual è il consiglio? Il consiglio è ovviamente navigare, chattare e partecipare ovviamente a dibattiti, ma non raccogliere provocazioni, soprattutto a livello verbale, perché si potrebbe arrivare a delle degenerazioni che potrebbero poi portare addirittura a querele. Questo ovviamente... È molto interessante comunque, sì, il percorso, quindi per la volontà di qualcuno, e quindi questo succede, la volontà di qualcuno, sì, di far chiudere un blog di pensiero, sì, ovviamente, è provocare, questo fa in modo che la gente ricomincia a insultarsi e quindi automaticamente il meccanismo. Ovviamente poi all'interno di chat ci sono i cosiddetti moderatori, sì, o gli animi nobili, che cioè il troll è facilmente individuabile, perché ovviamente se si comincia una discussione virtuale che è dettata da uno scambio informativo che non è ovviamente offensivo, e interviene un personaggio che sfrutta soprattutto la sua anonimità, perché chiaramente l'anonimato crea all'interno della navigazione su internet un alibi molto forte. Sì. Quindi se il troll che di punto in bianco interviene all'interno di una conversazione su internet, comincia a usare frasi offensive, tra virgolette, fino ad alzare come escalation virtuale la conversazione, a quel punto lo si deve ignorare. Ecco, questo è il nostro consiglio. Ecco, sì, forse è il consiglio che va usato al di là della rete, in generale con le persone anche, no? Sì. Quando vedi che la provocazione è volutamente esagerata, c'è qualcosa, sì, che non funziona. Ma questo si capisce anche subito, insomma. Ecco, ecco. Poi senti, diciamo che il consiglio che noi ci sentiamo di dare, ovviamente, che quando si accedono a social network come Facebook o Twitter o altri siti di commercio, diciamo che quattro sono i consigli basilari che noi possiamo dare, anche per proteggerci, ecco, a livello identitario. Innanzitutto non bisogna divulgare curriculum vitae se non in caso di assoluta sicurezza, quindi mai inviare documenti di identità per eventuali contratti di lavoro o per vendita o acquisti di oggetti su portali dedicati, quindi mai curriculum vitae. Poi assolutamente bisogna individuare delle password di accesso a qualsiasi sistema, password semplici. Ovviamente gli anziani che cosa fanno? Non si ricordano la password e quindi di solito tendono a mettere come password la loro data di nascita. C'è Michele Tosi che sta dicendo io sono uno di quelli. Ecco, diciamo tenderei ad evitarlo. Con lo username uguale alla password, ecco, no? Ecco, certo. E poi l'altra cosa che per noi è fondamentale, che non bisogna assolutamente pubblicare su Facebook foto tessera nel profilo, perché sono numerosi i casi che noi abbiamo riscontrato che attraverso questa fototessera si arriva a furto di identità con sostituzione di persona. Certo, perché stampano la foto e la mettono, quindi è un'altra cosa interessante. Mettiamo le foto nostre con nipoti, nipotini, amici, fidanzati, ecco, però evitiamo fototessera. Ecco, questo per noi è fondamentale da dire. Eh sì, no, non ci avevo neanche mai pensato, in effetti sì. Ecco, sì. No, dopo Alessandra, sì. Magari poi anche dopo il GR ti sentiamo un attimo per farti chiudere la conversazione. Chioso semplicemente su una cosa, che questa cosa degli anziani, dei PIN, mia madre quando gli ha rubato la borsetta, la borsa con il bancomat, sono riusciti anche a prelevare. Io le ho detto, quindi avevi il PIN scritto da qualche parte? Dice, no, non era scritto da nessuna parte, invece chissà, l'aveva scritto sicuramente sulla rubrica, Direttamente sulla scheda. È 16 minuti, continua il riposo del guerriero. Ancora buona domenica da Stefano Gallarini. Oggi si parla delle parole guerriere. E Michele Tosmi mi faceva... Prendo spunto da Fabio di Roma, che ha mandato dei messaggi, era un po' arrabbiato. È un po' arrabbiato Fabio. Con l'acqua calda. State scoprendo l'acqua calda. E poi dice, spengo la radio. Se no mi innervosisco, ha scritto. In un altro... Poi invece ha scritto ancora facendo i complimenti a te e a Francesca. E quindi alla fine siamo riusciti a tenercelo. Ci siamo detti prima che probabilmente è stato attirato dal tema. Esatto. Perché Parole guerriere, come si diceva prima, è un bellissimo titolo. Anche se poi le parole di cui si parla sono molto più banali, quindi diventa più interessante la formula in cui è stata venduta questo concetto che non poi il contenuto. Quindi il mestiere di copywriter continua a vivere. Esatto. Cerchiamo di riempire di contenuti. Va bene, sei d'accordo Francesca Dragotto? Ciao ancora. Di nuovo buongiorno. Questa dovrebbe essere la puntata per antonomasia, fatemi usare una parola un po' più complessa, una meta puntata, perché è il guerriero che parla del guerriero, delle parole guerriere, quindi dovremmo raggiungere il picco dell'interesse, anche se poi magari non sarà così, ma almeno potenzialmente non ci capiterà più di avere la trasmissione che parla di se stessa. Ecco, tra l'altro nell'idea del nome del programma i guerrieri sono gli ascoltatori, insomma, che tutta la settimana combattono per e poi la domenica invece vorrebbero rilassarsi. Poi non so quanto ci riescano con gli argomenti, però è quello che tento ovviamente di proporre. Alessandra Belardini ancora, prima di lasciarla, eccoci, secondo la divisione del Servizio Centrale di Polizia Postale, ci ha dato dei consigli, devo dire, preziosi e anche non così comuni, tipo quello della fototessera, non pubblicare sul profilo di Facebook. E poi hai ancora qualche consiglio da darci, forse non averli detti tutti, per evitare... Ovviamente il consiglio a cui noi teniamo, forse di più, è rivolto ai genitori. Perché ovviamente i social network come Facebook e Twitter sono in realtà luogo di scambio e di divertimento dei ragazzi, quindi sicuramente incitarli a farlo, a navigare, a sperimentare, esplorare, a conoscere, però come noi sempre diciamo la navigazione deve essere una navigazione tra virgolette assistita, ecco, quindi stare sempre attenti a dove vanno, con chi ovviamente chattano, quindi sbirciare ogni tanto, per i più piccolini stare vicino a loro ed insegnargli a navigare in maniera sicura. Ecco, questo per noi è fondamentale. E un'altra parola, se mi consentite, al nostro commissariato online, quindi per qualsiasi tipologia di problema, dubbi o necessità o sospetti, è un commissariato che è a disposizione degli utenti 24 ore su 24, che risponde velocissimamente, perché comunque ecco, noi siamo la polizia della rete e ci teniamo moltissimo a questo nostro prodotto. Ed è vero, Alessandra Belardini, perché io consiglio ai miei amici che hanno qualche dubbio di chiamarvi e hanno sempre avuto risposte, quindi complimenti per quello che fate. Abbiate davvero fiducia e navigate in grande serenità. Ecco, questo diciamolo, e guai se non ci fosse la rete. Grazie ancora. Grazie a voi. Buona domenica. Non lo faccio per essere un piacione in questo senso, però è vero, ne so che io consiglio sempre che esiste questo strumento, usiamolo. Esatto, quindi bisogna farlo assolutamente. E allora c'è Giampaolo che fa, siccome oggi parliamo di parole guerriere, le parole comunque possono essere anche guerriere nel senso che mettono in competizione in qualche modo. Allora è molto di moda in questo momento un gioco che c'è su iPhone, su Android, tra poco su Windows Phone, che parte però curiosamente da un gioco nato 2 anni fa su Windows Phone, che era Wordament, adesso si chiama Razzle, simile appunto a Wordman, ha avuto grande successo, è un gioco di parole, è una griglia di 16 lettere che vanno unite con il dito come se fosse una pedina degli scacchi, cercando di comporre più parole possibili. Chiaramente le lettere più più difficili hanno più punti, un po' come Scarabeo, ecco. Sì. E le parole più lunghe hanno più punti, poi ci sono dei bonus, ci sono grandissime battaglie in giro per la rete, tra amici, nemici, tutti guerrieri in questo caso con le parole. E Giampaolo chiedeva a Francesca Dragotto se giochi a Razzol, Francesca. Beh, io mi sono fermata agli antecedenti, quindi al paroliere a Scarabeo. Non a caso Razzol prende la terminazione del proprio nome da Scrabble, che è lo Scarabeo. Quindi sì. È da quando ho 4 anni che sono un'invasata di giochi di parole. Ecco, quindi attenzione che quando se giocherete a Razzol da oggi diventerete come Francesca Dragotto domani. Invasati, no? Anche perché è un po' deprimente quando, giocando a Razzol, che uno dice... ho fatto in quei 2 minuti, sì, mi sembra, 30 parole, poi le parole possibili erano 490. Sì, come 400? Però ho scoperto che esisteva un carattere, esisteva un trucco, questo non vale, non vale, però non vale, i trucchi non valgono perché sono mi arrabbio. Sono i software che ti dicono tutte le parole possibili. Ah, va capito, allora è facile così, esatto. Io gioco onesto, visto che l'onestà è una delle parole guerriere che sono state citate. C'è un'altra parola guerrierissima, credo in particolare in pubblicità, ma non solo, che è eco. Certo. Niente a che fare con la eco, l'apostrofo, che è un'altra la cosa. Eco è un'altra cosa. Sì. Beh, io dico guerriere perché sono sicuramente delle parole di moda, per cui di colpo, da qualche anno a questa parte, bio e eco, tutto deve essere bio eco, se no non per si forza. Vende. Se no non si vende. Ci dalla ecodosi alla... le ecoricariche, le ecosolubile, l'ecopass, anche se tutto eco e bio, guai non averlo. Ecco, però non diventano spuntate anche quelle alla sono fine. Molto spuntate. Però non c'è altro modo di dirlo, o bisogna in trovarle? In questo momento no, nel senso che è un suffisso che viene usato, un'etichetta, un bollino che viene strausato per poter essere... alla moda, cioè essere eco. Eppure è una parola che ha più di 2000 anni di vita, almeno la prima parte, eco è la parola eco, per casa, sì. In greco è una delle forme per la casa, anche se non ce ne accorgiamo, è la stessa che c'è in economia. Però appunto il discorso che fa Michele è molto chiaro. Da una parte c'è un'attesa comunicativa, io mi aspetto che ormai almeno nelle pubblicità, nelle promozioni di certi articoli compaiano quelle parole guerriere, perché teste di ariete. Sì. Dall'altra, a forza di sentire eco, appunto c'è un eco, c'è un rinnovo. Una eco, c'è una eco. O una eco, perché è uno dei pochi sostantivi che si trova attestato in entrambi i generi. E quindi la parola finisce per plastificarsi, come abbiamo detto già in altre occasioni, o quantomeno per rimanere un involucro vuoto, perdendo così di connotazione, di significato. Sì, anche perché non c'è una definizione, credo, corretta, perché un prodotto è eco e altri no, come il bio. Sì, per cosa significa infatti. Alla fine, no, davvero, perché poi c'è tutto il ciclo, bisogna pensare a quello. Esatto, ecco, vuol dire che la confezione può essere più facilmente riciclata, faccio un esempio, oppure sprechi meno perché è già dosato, ma anche lì è un punto, perché comunque se il dosaggio è quello, alla fine tu non puoi metterne meno, e quindi anche la tua scelta non c'è più. Anni no? fa c'era la storia della carta riciclata da usare, sì. Tutti usavano carta riciclata, quando poi si è scoperto che gli sbiancanti utilizzati inquinavano molto di più che non produrre una risma di carta normale. In effetti è vero, cioè, per quale davvero è bio, davvero è, come questo è un'altra, si apre chiaramente un altro capitolo. Grazie anche alle tante segnalazioni che sono arrivate con gli sms, davvero grazie agli ascoltatori, stiamo andando avanti, non era un saluto, ma siccome sono tanti messaggi volevo ringraziare pubblicamente. Aggiornamenti sul traffico, poi restiamo in tema eco, nel senso che parliamo di verde, di green, che è un'altra parola, il verde in generale, citata fra le tante parole guerriere. Il riposo del guerriero. Confucio diceva che se si vuole essere felici per tutta la vita bisogna piantare un giardino. Io aggiungo che bisogna avere anche un sacco di tempo per curarlo. Perché... anche un sacco di spazio. Sì. Lo spazio lo trovi, bastano anche un vaso, cominci da quello. Sì, ma curare le piante è veramente complicato. Pollice verde. Già quello non ce l'ho. Non so quanto impegni curare 600.000 metri quadrati. Questo però ce lo dice Roberta Gueli. Buona domenica, ciao Roberta. Ciao a tutti, buongiorno a tutti. Per curare 600.000 metri quadrati di giardino, quanti giardinieri ci vogliono? Una ventina di giardinieri, è tanta passione, tanto lavoro, tanta cura e dedizione per regalare a tutti i nostri visitatori quello che possono vedere da marzo a novembre, chiaramente. Ecco, parliamo del Parco Sigurtà, siamo vicino a Peschiera del Garda, Valeggio sul Mincio, e quindi sopra il Lago di Garda, un parco che ha tantissimi anni, fra l'altro. Ha tantissimi anni perché appunto la sua creazione risale a diversi secoli fa, a 4 secoli fa, però è stato aperto al pubblico nel 1978, quindi da più di 30 anni la proprietà appunto ha deciso di regalare e di offrire a chi ama la natura, chi ama il verde, chi ama appunto gli piace le esperienze green, il parco a tutti i suoi visitatori, e ogni anno proseguiamo in questa attività. Ecco, fra l'altro, appunto, siccome la primavera si avvicina, voi avrete un'apertura straordinaria, per questo volevo appunto, ho scelto il vostro parco, a parte perché è bellissimo, uno dei pochi al mondo, è una meraviglia che abbiamo in Italia, che molti non conoscono e che quindi è giusto raccontare, e, anche perché l'8 marzo, in occasione della festa della donna, l'ingresso sarà gratuito per tutte le donne, per cui la possibilità comunque quel giorno di visitare il parco che comincia a fiorire. Esatto, a fiorire, abbiamo i primi narcisi, le prime primule, insomma piano piano primule. La natura inizia a risvegliarsi, e appunto come dicevi venerdì 8 marzo ingresso gratuito per tutte le donne, domenica 10 marzo invece prende il via la stagione 2013 e a tutti i visitatori previo acquisto del biglietto d'ingresso regaleremo una speciale visita guidata in compagnia delle nostre guide, quindi proprio un'occasione imperdibile per assistere al risveglio della natura. Ecco Roberta, immagino che ci siano tante domande fatte proprio sul come coltivare, come curare, e c'è più attenzione secondo te verso queste cose, cioè ci si avvicina di più oggi che nel passato, visto che il parco è aperto da molto tempo, al verde in generale? Sì, sicuramente sì, vediamo appunto anche dalla nostra pagina di Facebook, abbiamo più di 26.000 fan, tanti ci fanno i complimenti, ci ringraziano appunto perché teniamo aperto, ma tanti anche ci chiedono appunto come facciamo, come cosa c'è dietro, e noi rispondiamo sempre appunto che c'è, come dicevo, questa passione, questa cura, questa amore appunto per la natura che ci permette di proseguire nel tempo, e quindi sicuramente, come dicevi tu, c'è più sensibilità a questo filone green, a questo rispetto appunto per la natura. Grazie Roberta Gueli. Parco Sigurtà lo trovate anche su internet, sigurtà.it è il sito, e poi appunto se siete da quelle parti, ma devo dire che è vicino anche a molte città del nord Italia, è facilmente raggiungibile dall'autostrada, e quindi l'8 marzo invitiamo tutte le ascoltatrici anche con i loro accompagnatori, perché no, ad andarlo a visitare. Grazie Roberta. Assolutamente, grazie a voi, vi aspettiamo. Grazie. Allora, io ho le ultime battute con voi, volevo leggere ancora qualche messaggio. Stefano scrive: una volta c'era elettronico, ora sa di antiquato, la posta elettronica, il cervello elettronico, però è tornato di moda con la sigaretta elettronica. È vero. È verissimo. È una giusta considerazione. Esatto. Allora, poi qualcuno dice: il paroliere c'era in TV 30 anni fa. Paroliamo, sì. Esatto. Lei era la Lea Pericoli, giusto, che conduceva Paroliamo, sì. che era una tennista, tra l'altro. Sì. Ecco. Mi ricordo tutto. Bravo. Perché ce l'avevano delle certa carte. E no, non solo una certa età, ma mi piacevano questi giochi, ovviamente, non può che essere così. Senti, Francesca, per chiudere gli interventi, saluti di Michele, è una sola cosa. Allora, usiamo oggi curriculum vita, vitae anche al plurale, oppure dobbiamo dire curricula vitae? Cosa facciamo? Visto che, Sono diffusi entrambi gli usi. È chiaro che in un uso della lingua che guarda anche al passato, che guarda quindi alla diacronia, a quello che è successo, alle trasformazioni, è meglio curricula, però non demonizziamo chi utilizza la forma non declinabile curriculum. Ecco, però curricula non è una parolaccia, ecco, diciamo, neanche un errore, ecco, lo diciamo chiaramente. No, anche perché, e qui vado veramente a chiudere sulla parola moderno. Moderno, non tutti sanno che è aggettivo che si forma sull'avverbio latino modo, che significa ora. Quindi è interessante vedere il consumo, è una parola che nasce bruciata, che nasce consumata, perché è moderno ciò che vale ora, quindi ogni volta dovremmo stare a definire cos'è moderno, cos'è di moda. Deve fare un'altra puntata, bisogna fare. Sì, perché noi diamo per scontata, no, la validità del termine, tant'è che dividiamo anche, che so, la letteratura, la storia, no, in antico, medievale, sì, moderno. Però se andiamo a vedere la matrice etimologica, invece dovremmo ricorrere ogni volta a un modo diverso di pertinentizzare ciò di cui stiamo parlando, perché moderno è ora, tant'è che è stato creato proprio per indicare le nuove tendenze in antitesi a tutto ciò che guardava sempre al passato. Ecco, quindi comincia una cosa moderna, vuol dire di adesso, è dell'oggi. Sì, oggi preferiamo dire dell'oggi, oppure attuale. A me succede poi che il lunedì, quando tornare a scrivere, dopo aver sentito queste cose, non scrivo più niente. No, beh, no. Perché cosa, Francesca? Secondo me stai pensando a uno slogan con chic che è scritto, immaginati la pubblicità del riso, no? Il chicco kick. Chicco kick. Io ti immaginavo prima, mentre ti arrovellavi per pubblicizzare. Tanto non è così elegante. Devi vedere gli occhi spiritati di Michele Tosi quando parli tu, Francesca, perché scopre delle cose che gli aprono proprio, si vede che gli aprono un mondo, no? Incredibile. Perché... Ma la cosa è reciproca, sì, perché poi abbiamo due punti di vista sugli diversi sugli stessi argomenti, quindi inevitabilmente ci rimpalliamo spunti, riflessioni. Allora, Michele, presente, come chiudiamo con le parole guerriere? Come chiudiamo? Secondo me è molto bello l'inizio che tu hai fatto, nel senso che un comunicatore come è stato Grillo ha coniato, e questo dal punto di vista del pubblicitario, uno slogan per vendere un suo modo di pensare, al di là poi delle parole che in effetti poi nessuno magari si ricorda esattamente, quindi sì, quali è sono? Stato, come siamo detto prima, molto più utile la formula, ma va tenuto in considerazione la modalità di come certe parole hanno dei pesi. Ancora una volta, il peso delle parole è fondamentale ed è bello conoscerle ed è bello utilizzarle con attenzione, quindi non buttarle via, scriverle che rimangono e non avere un bla bla che ci confonde tantissimo. Quindi... Abbiamo amore per le parole, dobbiamo, sì, conservarlo. Tantissimo. Grazie Michele Tosi, grazie, a voi. Grazie Francesca Dragotto. Grazie a voi, buona domenica. Sappiamo che sei d'accordo con noi sull'amore per le parole, non può che essere così. Ma giustamente non mi fai domande perché sai che poi avresti difficoltà a bloccarmi, quindi no, anche l'economia della parola. Anche perché c'è Andrea Ligabue che ci sta aspettando per raccontarci dei giochi e tra l'altro c'è una cosa molto curiosa che mi ha fatto anche un po' arrabbiare, adesso ve ne parlo subito. Giochi e videogiochi. E nel riposo del guerriero l'appuntamento dedicato ai giochi e ai videogiochi. Con i videogiochi aspettiamo grandi titoli che stanno uscendo proprio in questi giorni e quindi con la settimana prossima sicuramente ne parleremo, e per quanto riguarda i giochi invece c'è il nostro ludologo Andrea Ligabue. Ciao, bentornato. Ciao Stefano e buona domenica a tutti. Allora, oggi parliamo di giochi che hanno a che fare con alcune delle parole guerriere che abbiamo analizzato oggi. Cominciando da cosa, Andrea? Allora, io sì, avevo pensato a tre titoli. Il primo titolo si chiama Alta Tensione ed è un gioco molto famoso, uno diciamo dei giochi più apprezzati nel mondo dei giocatori, e diciamo parla dello sviluppo dei collegamenti elettrici in Germania o in America, che sono diciamo le due mappe che sono presenti nel gioco. In pratica i giocatori sono dei provider di servizi di collegamento elettronico, devono cercare di portare la luce, l'energia elettrica nelle varie città. C'è un meccanismo, due meccanismi molto belli che mi hanno fatto pensare a questo gioco legato a questo tema. Il primo è quello dello sviluppo delle centrali, perché nel corso del gioco si parte da diciamo delle centrali che consumano molto e poco efficienti, quindi poco in grado di alimentare città, e man mano i giocatori acquisteranno centrali sempre più efficienti e possono anche diciamo decidere di andare sulle centrali nucleari, centrali a carbone e petrolio, anche diciamo a centrali che si sostengono da sole perché funzionano con energie rinnovabili. Contemporaneamente l'altra cosa carina, c'è un meccanismo di mercato tale per cui se tutti costruiamo delle centrali ad esempio, che necessitano petrolio, il costo del petrolio aumenta e le risorse sono poche, quindi c'è molta lotta. Mentre se differenziamo, cioè ogni giocatore riesce a sviluppare un tipo di centrali diverse dagli altri, ha accesso alle risorse a costo minore. Il gioco, diciamo, è abbastanza semplice come meccanismo, c'è questa mappa di gioco con delle città collegate con delle tratte che hanno un costo, cioè un valore riportato sulla mappa che è il costo che serve per portare la proprio collegamento da una città a quella vicina. I giocatori hanno delle casette che rappresentano le loro, diciamo, sedi della loro ditta fornitrice d'energia, e quando si insediano in una città significa che hanno collegato quella città. Il gioco, man mano che si sviluppa, nelle prime fasi in ogni città ci può essere un solo giocatore, poi diventano due giocatori, poi tre giocatori, quindi diciamo le reti dei giocatori si mischiano. Alla fine di ogni turno un giocatore guadagna tanti soldi quanti sono le città che riesce ad alimentare, e questi soldi gli servono per l'asta delle centrali che c'è ogni turno. Ogni turno ci sono a disposizione delle centrali, c'è una vera e propria asta, ecco. E in più i soldi servono per comprare le risorse. Ecco, quindi diciamo che è un gioco davvero educativo, nel senso della parola, perché oltre ad essere strategico, però in realtà il meccanismo che porta all'acquisto di energia di qualunque tipo essa sia, pagare una certa cifra che dipende dalle regole del mercato, devo dire che con le regole di questo gioco appunto si capiscono quali sono i meccanismi, no? Che fanno aumentare e diminuire i prezzi, e esatto, forse fa capire anche in che direzione bisognerebbe andare. Esatto, devo dire che proprio con questo gioco un gruppo di appassionati come me di Imperia hanno fatto una serie di interventi nelle scuole superiori utilizzando questo gioco proprio come strumento didattico per insegnare ai ragazzi delle scuole superiori, diciamo, un rudimento di strategia economica e di sviluppo. Quindi effettivamente è un gioco che si presta molto bene. Si chiama Alta Tensione, l'autore è Friedemann Fries e in Italia è prodotto da Stratelibri Giochi Uniti. Ecco, chissà quando faranno la mappa dell'Europa al posto della mappa solo della Germania o degli stati. C'è anche la mappa dell'Italia, in cui hanno inserito la regola della corruzione, la mappa della Francia, in cui ad esempio c'è più disponibilità di energia nucleare rispetto ad altre mappe. Quindi diciamo hanno fatto diverse mappe, c'è il Giappone, personalizzate sul anche le caratteristiche specifiche di quel territorio. Mi piace che le caratteristiche, cioè mi piace, chiaramente è virgolettato, sì, che le caratteristiche che governano l'Italia sia la corruzione. Io credo che sia un dramma, bisognerebbe aprire un capitolo intero su questa informazione, esatto, che ci dai. Davvero. Vabbè, non ne discuto perché non siamo... che abbiamo all'estero non è sempre la migliore. Davvero, mi fa molto pensare, questo non è la sede, ecco, per parlarne, però che gli ascoltatori aprano bene le orecchie. Allora, questa era Alta Tensione, un altro gioco invece si chiama Agricola e dal titolo credo si tratti di un gioco destinato alla coltivazione. A che cosa? Sì, esatto, è ambientato nel 1600 e i giocatori sono dei contadini che devono sviluppare un loro appezzamento di terreno, devono nello stesso tempo controllare varie cose, devono arare dei campi in cui piantare grano e frutti e verdure, devono allevare pecore, maiali e mucche, devono migliorare la loro abitazione facendola passare da un'abitazione in legno a una, diciamo, in pietra. E devono riuscire anche a aumentare la popolazione, quindi ci sono tutti questi fattori da tenere conto durante il gioco. Il gioco si sviluppa in turni, nei turni i giocatori eseguono tante azioni quanti sono le persone che abitano nella loro fattoria, e ogni giocatore sceglie un tipo di azione. La caratteristica di questo gioco è che se io ad esempio in questo turno costruisco i recinti, scelgo l'azione di costruire recinti, nessun altro può sceglierla, quindi c'è un, diciamo, una lotta per decidere che azioni. Chiaro. Sono varie, esatto, ci sono risorse che possono essere legno, pietra, argilla, che servono per fare le varie cose, ci sono altre risorse che sono gli animali, e la caratteristica che mi piaceva di questo gioco sul tema di oggi è che obiettivo è alla fine di ogni anno di gioco è mantenere la propria famiglia, quindi bisogna riuscire a far crescere la fattoria ma anche a produrre abbastanza cibo per mantenere tutti gli abitanti della propria famiglia, se no si ha delle penalità. È un gioco che può essere giocato in due modalità, una modalità famiglia abbastanza semplice con queste regole, una modalità avanzata in cui ogni giocatore ha a disposizione delle carte speciali diverse da giocatore a giocatore che gli permettono di costruire nella sua fattoria cose particolari che possono essere lo stagno delle oche, il pozzo ce ne sono veramente centinaia e centinaia di carte, quindi ogni partita è diversa. E questo gioco è attualmente considerato il terzo miglior gioco al mondo nella classifica dei giocatori, ed è anche questo prodotto in Italia da Starte Libri e Giochi Uniti. L'autore è un tedesco, anche in questo caso si chiama Uwe Rosenberg. Grazie Andrea Ligabue. Io vi ricordo ludologo.com, il blog che cura Andrea, con tutte le informazioni non solo sui giochi che ci racconta qui, ma anche su altri, e poi ovviamente anche il nostro sito, che è radio24.it, per ascoltare podcast e anche il blocco dedicato a questo argomento. Grazie ancora Andrea, buona domenica. Grazie Stefano, buona domenica a te e buona domenica a tutti voi. Buon gioco. Il riposo del guerriero. Fa piacere che vi sia piaciuto il gioco sulle centrali di cui si parlava prima con Andrea Ligabue, ma non è un web game, non è un gioco che si gioca in rete, ma è proprio un gioco cartaceo. Ci piace parlare di videogiochi e di giochi in scatola. Poi qualcuno si è lamentato perché dice: ah, ecco, smentisco categoricamente, sarà che bisogna incominciare da piccoli a sviluppare il pollice verde, ma dire che è complicato è un'esigenza. Non ho mai detto che è complicato, a parte che parlavo assolutamente in modo personale. Ho detto che ci vuole il tempo, ecco, cioè il curare il verde nel giardino richiede tempo, ecco, che bisogna avere, a parte anche amore per, insomma, io non sono capace, ma perché non ci dedico il tempo. E mi piacerebbe molto, però ci vuole qualcuno che in qualche modo mi, insomma, avvicinasse, dicesse delle cose, perché sono sempre i segreti da conoscere e delle regole. La terra ha le sue e bisogna assolutamente rispettarle. Il gastronauta. Davide Paolini, tu come te la cavi con il pollice verde? Ce l'hai? Sei ma io ho un terrazza, sì, ho un orto, lo so. Ma lo fa un'altra persona. Vedi, non sono capace, no, anch'io, scusami. No, però io ci parlo, ecco, parlo con bene. Le piante. E poi è un vantaggio enorme, perché io da quando ho l'orto sul terrazzo ho cominciato a mangiare verdure che prima mangiavo rarissimamente. Ora invece le mangio e mi sono appassionato anche al discorso delle coltivazioni, del verde. Poi io ci sono due o tre piante che amo molto. Uno è il chinotto, la pianta di chinotto, perché molti magari pensano che chinotto sia una bibita, che non sia una pianta che faccia dei frutti. Vabbè, arriva da lì il gusto, è come la cola, no? Il frutto della cola. Ecco, sì. E l'altro è il carrubo, sì, di cui io ho un altro grande amore. Purtroppo ora, con questo inverno, ha dei problemi la mia pianta di carrubo, che ormai è 2,5 metri, quindi però purtroppo Milano delle volte funziona questa, diciamo, questo posto, questa terrazza, e altre volte no, il carrubo purtroppo per un errore se n'è andato, quindi ora dovrò lanciare un SOS di comprare un altro carrubo. Infatti io dicevo che non è che sia complicato, solo ci vuole tempo e bisogna conoscere la terra e conoscere le piante, no? Perché ognuno ha le sue esigenze. La stagionalità. Esatto, perché se non sai quello... Quando raccogliere, però credo che sia veramente una cosa molto molto piacevole. Assolutamente avere, sì, avere vicino questo, poi coglierlo, cioè la soddisfazione di mangiare un'insalata che tu ce l'hai di presente a pochi metri, altro che chilometro zero. Guarda, a me soddisfa già soltanto la salvia e il basilico, che sono semplicissime, però potessere prendere la pianta e usarle mentre stai cucinando e lì comunque piacevolissimo. Comunque mi fa rabbia, perché molta gente viene e dice: ma pensa a te l'inquinamento. Ma no, ma no, ma ne abbiamo già parlato. Scusate, le altre cose da dove arrivano? Cioè, non sai mica da dove arrivano. Ne abbiamo già parlato in una puntata del riposo del guerriero, che sono, insomma, sono fandonie, diciamo, non hanno nessuna ragion d'essere quelle critiche. E invece abbiamo parlato di parole guerriere. Beh, una è bio, sì, e l'abbiamo appena citata, ma quali sono le altre parole guerriere secondo te in enogastronomia, Davide? Ma io non credo che bio sia più una parola guerriera, per un motivo che ormai è talmente diffuso. Ma abbiamo detto anche quello, che ormai è spuntata, come diceva Michele Tosi. Una parola guerriera nel cibo, per motivi che ora ti dico, è, sì, ad esempio vino naturale. Sì. Perché guerriera? Perché è stata sequestrata, cioè le bottiglie che hanno messo la scritta naturale sono state sequestrate a Roma, ad esempio in un'enoteca, dalla polizia delle politiche agricole. Perché? Perché naturale non significa niente, cioè non ha dietro una legislazione tale. Beh, come gli aromi, diciamo, è come gli aromi naturali che troviamo nella composizione di qualunque prodotto. Naturali non vuol dire che arrivino dalla terra, vuol dire che esistono in natura, ma possono essere anche chimici. No, addirittura il vino non lo puoi mettere. Cioè, un vino, se tu metti su un vino la scritta naturale, ha dei grossi problemi. Sì. Perché il vino convenzionale, e molti dicono: beh, il vino è naturale tutto. E sì, dice questo, ma naturale non ha una legislazione. È come quando d'estate si vedono gelateria artigianale non significa niente, anche questa parola, perché dietro non c'ha un disciplinare e non ha una regolamentazione. Quindi vino naturale vuol dire tutto, vuol dire niente. Certo, per un certo ambiente sicuramente vuol dire molto, perché sono dei gruppi, delle associazioni che si identificano su questo tipo, diciamo, di tipologia di produzione, prima di tutto delle uve e poi del vino, che si autodefiniscono naturali. Io infatti dico sempre i cosiddetti vini naturali, perché se tu metti i cosiddetti davanti ai naturali, la polizia delle politiche agricole non ti può fare niente, perché è cosiddetto naturale. Ecco, ma si sono ridefiniti in un altro modo o stanno studiando come ridefinirsi? Beh, cioè, la definizione ce n'è una unica per oggi, diciamo, di quel mondo lì. È vino biologico. Un tempo era solamente uve biologiche e uve biodinamiche. Oggi, con i nuovi provvedimenti disciplinari della Comunità Europea, c'è una definizione di vino biologico. Per cui, se tu in una bottiglia vedi scritto vino biologico, è corretto. Se 4 mesi fa, 5 mesi fa, vino biologico era scorretto, perché esisteva solamente un disciplinare per l'agricoltura biologica e basta. Quindi oggi invece esiste vino biologico, per cui, per tornare alla parola guerriere, ormai è una parola che è entrata, diciamo, anche nelle normative, quindi non può essere più guerriera. E va bene così. Grazie Davide Polini, buona domenica. Anche a voi, e cura il tuo orto, ciao. Ciao. Tra pochissimo invece per voi la possibilità di portarvi a casa il catalogo e i biglietti d'ingresso per la mostra Modigliani e gli artisti di Montparnasse. Modigliani in 24 minuti. A Palazzo Reale, a Milano, questa è la mostra. Il numero verde per partecipare è 800 24 00 24. Io vi faccio ascoltare una canzone e voi dovete, in questo caso, dirmi quale quadro di Modigliani fa riferimento in qualche modo a questa canzone. Qual è il titolo? Quale titolo si avvicina al titolo della canzone, diciamo così. Vi sto già aiutando, ma lo farò ancora di più quando sarete in onda. 800 24 00 24 e questa è la canzone. E la notte le accenderà, fiamme di stelle nell'oscurità. Eccola qui, questa è una bellissima canzone di Grazia Di Michele, si intitola Le ragazze di Gauguin. Maria da Bergamo, buona domenica. Buona domenica a lei. Allora, Maria, c'è un quadro di Modigliani che... Dunque, Modigliani ha dipinto diversi quadri che hanno per soggetto la donna. Quello sicuramente, direi moltissimi. Ecco. E in questo caso il titolo della canzone è Le ragazze di Gauguin, quindi di quali donne stiamo parlando? Di... Dunque. Cioè, no, nel senso, no, voglio dire, siccome il titolo della canzone è Le ragazze di Gauguin, e quindi nel titolo del quadro ci sarà la parola quale potrebbe essere, che ha a che fare con la donna, ma non è proprio donna, è una bambina, la bambina in azzurro. Maria, io ci ho provato in tutti i modi, e cosa devo fare? Di più, non ho dato la soluzione, devo dargli. No, non è la bambina in azzurro, che rabbia. Peccato veramente. Maria, scusami, Maria, però, se ti dico, il titolo della canzone è Le ragazze di Gauguin. Potrebbe essere la ragazza. Le parole, ormai siamo andati. Comunque non è neanche la ragazza seduta, te lo dico, neanche quello. Niente. Grazie Maria. Peccato molto. Mi dispiace. Ciao, ci riprovi. Allora, c'è Leonardo dalla provincia di Foggia. Ciao Leonardo, buona domenica. Buongiorno anche a te. Allora Leonardo, abbiamo capito che la parola che fa parte del titolo di questo quadro di Modigliani è... Senti, vuole che il quadro era come Le ragazze di Gauguin? Le ragazze di Gauguin è il titolo della canzone. Abbiamo detto che il titolo del quadro di Modigliani ha una parola sicuramente che è ra. Ra. Ra. Cra. Mi stanno facendo. Ragazza, no? Ragazza, ecco, però al plurale perché le ragazze di Gauguin, quindi. Ragazze. Ok. Quante? Voglio dire, quante ragazze sono in questo quadro? Il titolo si intitola, il titolo del quadro è ragazze, c'è un numero prima. Quante? Non so, tre. Tre ragazze, è sbagliato, però è così, non è tre ragazze. Ragazze, grazie Leonardo. Vabbè, alla prossima. E grazie anche a chi ti ha suggerito alle tue spalle. Buona domenica. Mirella da Milano, buongiorno. Buongiorno. Ciao Mirella, ormai è fatta, se non mi rispondi. Le due ragazze. Non era difficile, No, l'ho visto. Ah, l'hai visto anche? Sì. Brava, ecco, adesso lo rivedrai. Però. Sì, molto volentieri. Allora, Modigliani, artisti di Montparnasse, per te il catalogo e due biglietti d'ingresso. Complimenti, Mirella. Grazie mille. Ciao, grazie, ciao. Adesso resto in linea? No, puoi anche mettere giù, poi ti richiamiamo noi. Grazie ancora, ciao. Federico da Bari. Federico, sì, ciao Federico, per te la canzone cambia, però ti garantisco che la risposta è molto semplice, come sempre. Grazie. E ti aiuterò anche molto, ascolta questa bella canzone di Alex Baroni. Si vince sempre, il premio siamo noi. Mi senti o no, mi senti o no, come ti amo. Lo so, è come succhiando l'uva di Mina, ma questa è la versione scritta da Alex Baroni ed è Il Dado. Si intitola così, Federico. Allora, sì. La canzone si intitola Il Dado, ok? Sì. Hai presente come è fatto un dado, no? Ovviamente. Sì. C'è un movimento artistico molto famoso, contemporaneo a Modigliani, e siamo sempre in Francia, Montparnasse, da quelle parti, Però è un movimento artistico al quale Modigliani non ha mai partecipato, ok? Sì. Qual è il movimento artistico di cui sto parlando, che in qualche modo ha a che fare con il dado? Allora, guarda, conosco abbastanza bene Modigliani, dovrebbe essere il dadaismo. E lo sapevo che era stato il dadaismo, perché era facile, cioè, non è il dadaismo. No, non è il dadaismo. Ah. È un altro, mi dispiace Federico, che rabbia, ciao, buona domenica. Ciao. Che rabbia, lo so, il dado, il dadaismo è facile, ma no, è un altro movimento che ha a che fare con il dado per... Luisella, hai capito di cosa sto parlando? Sì. Ma forse, spero. Penso al cubismo. Perché la forma del dado è quella. Ecco, esatto. È vero, del cubismo stavo parlando. Brava, per te quindi il catalogo della mostra e biglietti d'ingresso. Ecco, magari uno regalo a Federico di Bari, va, che ci ha provato, mi dispiace. Che, vabbè. È caduto nel tranello del dado. Ciao Risella, grazie. Buona grazie, domenica. Grazie a te. A voi. Elisa dalla provincia di Milano. Elisa, ciao, guarda, altra canzone e ti garantisco anche qui risposta molto facile. Ma non ci deve essere il tranello come il dadaismo. Ma tu ci credi se ti dico una cosa? Sai che quando ho costruito l'indizio non ho pensato al gioco di parole col dadaismo, ci ho pensato adesso. Poco prima che Federico rispondesse ho detto si può cadere in un tranello, però non ci avevo pensato, mi dispiace. No, però è facile e non è la tua risposta che mi dovrai dare, poi ti dirò, non è uno dei quadri di Modigliani o dell'artista di Montparnasse, ma è un'altra cosa, come in questo caso che era un movimento, il cubismo. Ecco la canzone. Prima no. Alessandra, pronto? Pronto. Già. Elisa, scusami Elisa, Elisa, ah, ecco. Perdonami Elisa, okay, scusami, okay. Ho confuso la riga dove si sono scritti i vari nomi, sono sceso, sono salito di una. Allora Elisa, conosci questa canzone, vero? La conosco ma non ricordo il titolo. Fiume Azzurro si intitola, di Mina. Fiume Azzurro. Allora, pensando agli artisti di Montparnasse, sai in quale città siamo, sì, no? Certo, ecco. Beh, sì, certo. E allora il Fiume Azzurro a cosa ti fa pensare? Alla Senna. Oddio, mamma mia. No, era difficile, diciamo Elisa. Troppo, troppo, effettivamente. Invece era facilissimo. Brava Elisa, per te il catalogo della mostra e 2 biglietti d'ingresso, brava. Ecco. Grazie mille. Ciao, ciao. Grazie. Allora, facciamo una cosa, c'è Chiara dalla provincia di Milano. Chiara? Sì, ciao. Allora, ciao Chiara. Io adesso ti faccio ascoltare la canzone e tu sarai la prima ascoltatrice a rispondere la settimana prossima, va bene? Ottimo, sì, okay. Direi che è la soluzione migliore. Brava, ciao, buona domenica Chiara. Anche a te, grazie di tutto, ciao. E questa è la canzone. Let me sleep and let me be. Just walk away. Se avete riconosciuto questa voce, la canzone è Just Walk Away, la voce è quella di Karima. E io vorrei sapere, ormai la settimana prossima, puntuali alle 10 con il riposo del guerriero, nel momento dedicato a Modigliani 24 minuti, cosa ha in comune Karima oppure la canzone Just Walk Away con Modigliani. Questo vorrei saperlo da voi, ma noi ci sentiamo domenica prossima alle 10. Grazie a tutti come sempre per essere stati qui su Radio 24, continuate a farlo. Grazie a Gesù De Luca in redazione, a Nicole Santini in assistenza, a Cameo Lauricella in regia, e a voi buona domenica da Stefano Gallarini.